24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. In questo senso noi abbiamo segnalato dei casi che poi si sono rivelati confermati. Se si va a vedere il resoconto stenografico, il senatore Giovanardi ha ammesso di aver chiesto al collega di votare, quindi ci sono anche dei rei confessi. Il senatore Formigoni, i rei confessi, rei confessi, continua il Movimento 5 Stelle. Questo era il senatore Orellana, non ho ben capito, a chiedere, insomma, ce l'hanno con i pianisti, quelli che secondo il Movimento 5 Stelle votano per altri. Rei confessi erano Giovanardi e Formigoni. Iniziamo da qui, cari ascoltatori, in questa 24 mattino che chiude i battenti questa settimana, con Miriam Lucchetti in redazione, con oggi Paolo Corleone in regia. Vabbè, insomma, Carmelo Lauricella, hanno detto, non ha resistito fino a venerdì. Cioè, capite, noi ci svegliamo da 3 anni alle 5 e Carmelo Lauricella non ha resistito una settimana fino a venerdì. Sono cose veramente che ti farebbero brandire la clava subito. Comunque, apriamo il nostro Parlamento. Eccoci qua. C'è Nicole Minetti. Va bene così. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Oh, tu continui, che vabbè, forse hai preso anche tu i suoi favori. Crossate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè, la signora si doveva forse un po' rassegnare. Voglio salutare subito Vladimir Luxuria, buongiorno, ben trovata. Cioè, questa buongiorno. Dà fastidio, Vladimir, a ricevere il caffè della Minetti. A questa signora dà un po' fastidio che facciamo offrire il caffè da Nicole Minetti da qualche mese. Ti dà fastidio? Basta che non sia avvelenato, no. Che non sia di qualità scadente. No, assolutamente. Allora, Vladimir Luxuria, ti voglio presentare un questore. No, un questore del Senato, uno di quelli che pare ami molto il pianoforte, così dicono, no? Lucio Malan, buongiorno. Buongiorno, saluto voi, saluto Vladimir Luxuria, sì, e gli ascoltatori, e preciso subito che il presidente Grasso ha detto per 3 giorni consecutivi che io ho fatto tutto in regolare, ma certo, ma certo. Però naturalmente passa la notizia invece che forse, magari, sì, vabbè, sì, il presidente ha detto che è innocente, però intanto discutiamogli un po' di fango addosso. No, allora, il senatore Malan ieri è stato ripreso da quelli del Movimento 5 Stelle. Allora, è successo questo: lei, senatore Malan, si era spostato un attimo dal suo posto, no, per parlare, sì, per chiacchierare. Per chiacchierare con davanti. Qualcuno. Allora, al momento della votazione, cosa fa? Si gira e mette la mano al suo posto. Insomma, il gesto. Come il gesto. Vedeva chiaramente nelle riprese. Sì, sì. Il gesto sembrava quello classico. Eccolo lì! Il pianista che vota in un posto che non è il suo, vota per un assente. Insomma, queste cose. Mi scusi, sarebbe come dare del pedofilo a uno perché passa dalle parti dell'asilo infantile. È chiaro che se a questo punto, se va bene dare del pedofilo a chi passa dalle parti dell'asilo infantile, direi che siamo alla barbarie. Però appunto, prima di fare le accuse, è anche peggio fare le accuse di aver fatto una cosa, è anche molto peggio di aver fatto una cosa. Però poi i senatori hanno iniziato, ma perché non era al suo posto? Ma perché non era diligentemente seduto lì? Perché non se ne stava a casa invece di passare davanti all'asilo infantile? Iniziamo subito, continuiamo su questo. No, perché qui si gioca con la reputazione delle persone. No, ma è chiaro, ma in questo se caso... Se mi rompono un braccio guarisce, se mi distruggono la reputazione... In questo caso, devo dire, hanno preso una cantonata, però i rei confessi, Giovanardi e Formigoni, pare ci fosse, cioè Formigoni non ha detto effettivamente... Non sono rei confessi e non sono neppure rei, perché hanno ammesso che cosa? Sì. Hanno ammesso Formigoni... Di aver sbagliato a mettere la schiena. Di aver sbagliato, e di conseguenza lui ha infilato prima la tessera nella buca accanto al suo posto, perché c'erano diversi posti vuoti, per cui lui non ha riconosciuto bene il suo, ha messo la tessera nel posto accanto al suo, ha provato a votare, ha messo la mano lì, poi ovviamente non funziona, se non è il tuo posto non funziona, poi l'ha messa nel suo e ha funzionato, però in apparenza ha votato 2 volte, però appunto in apparenza quello che è passato davanti all'asilo infantile e ha provato a entrare, in apparenza è un pedofilo. Quanto a Giovanardi, lui si era spostato ammesso un attimo, la cosa certissima che era in aula, e ha ammesso di aver chiesto a un collega che era di votare posto, per lui, di premere per lui, posto che ovviamente l'intenzione c'era, la presenza c'era, il Senato la regola e che si vota per alzata di mano. Sì. Il voto elettronico è una verifica di quello che si fa. Sì, certo, perché Giovanardi era a 2 o 3 metri e ha detto: scusa, aspetta, sì, sì, io voto, che ne so, sì, oppure no, vota per me, che sono un attimo a 3 metri. Da... E allora la scena è stata di uno che ha votato per lui, ma con Giovanardi. Sono stato fortunato sì. Perché mi hanno ripreso per bene. E si vede chiaramente che ho che ha votato al suo posto. Che ho votato, però in una giornata in cui ho fatto tantissime cose come molti parlamentari devono fare, l'unica cosa che è passato è questo, e per ben che vada alla fine della storia io probabilmente non sono un disonesto, ma solo probabilmente. Sì, comunque invece questi qua che diffondono la menzogna, la calunnia, passano per eroi. Comunque passa l'idea che lei qualcosa di, come dire, così come un po' di... Vabbè, non è pedofilo, però intanto passava vicino all'asilo infantile quando lui abita almeno 200 metri. Vabbè, comunque, senatore Malan, ma sa che il clima è un po' questo, io vorrei chiedere Vladimir... Perché il clima è pericolosissimo. Vladimir Luxura, intanto, ti ricordi all'epoca in Parlamento? C'erano tanti pianisti all'epoca? C'erano i pianisti quando c'eri tu? Ma sì, diciamo che c'erano, si faceva come prassi, a volte quasi uno doveva fare una cosa, chiedeva all'altro e l'altro sapeva le intenzioni. Però certo è una cosa, una volta l'ho fatto anch'io, nel senso che uno mi ha chiesto. No! Attenzione, ammissione di Vladimir Luxura. Vladimir Luxura una volta ho fatto la pianista. C'era un, adesso non dico chi era il parlamentare, quello accanto a me, che ha detto: guarda, non andare di corsa in commissione, questa legge vota a favore da parte mia. L'ho fatto, tra l'altro mi hanno anche beccata, però l'hanno subito scritto, perché c'era una sorta di grande fratello lì all'interno, anche prima dei pentastellati, c'erano già i fotografi lì, e quindi mi hanno fotografato e hanno titolato Luxura la pianista, perché devono stare attenti. Però da allora ho capito che, insomma, non si fa, ognuno al posto suo, ognuno deve votare per sé. Sì, sì. Sì, ma in questo caso eravamo al paradosso, cioè, perché Malan si è spostato un attimo e si è voltato a votare al suo posto. Però... l'unica cosa che contesto a Malan è il paragone un po' troppo azzardato con la pedofilia. Sì, sì, ecco, sì. Secondo me, insomma... Però Malan voleva fare l'immagine forte per capire, insomma... L'immagine forte, perché a me è successo per una cosa che, peraltro, di questi tempi, col clima che c'è, credo che non so che cosa viene giudicato peggio, perché ormai il parlamentare, già solo se è parlamentare, beh, no, adesso non esagere, una cosa vicina ad essere un reato, no non esagere, ma... informazioni. E poi appunto, così come uno può essere distrutto, gli si può venire attribuita questa nomea, purtroppo gli possono attribuire altre nomee, cioè la logica è che bisogna rispettare che cos'è la verità. Sì. Ma guarda, 2 giorni già se lo sono dimenticato, sì. No, ma effettivamente, dai Malan, tra 2 giorni questa vicenda se ne sono dimenticata, no, se fosse stato veramente pianista l'avrebbero un pochino presa in giro, ma tra 2 giorni... No, adesso... perché vede, già mi era successo una volta, sì. Solo che purtroppo l'evidenza... Era meno palese, sì. Già mi è successo una volta, e naturalmente adesso hanno ritirato fuori questa storia. Ma come ci dice Vladimir Luxura, a chi non è successo di fare il pianista una volta, No? Il problema è che, ho capito, però appunto, siccome lei dovrebbe leggere quello che c'era su YouTube finché non hanno finalmente tolto il video, c'erano dei commenti feroci, ripeto le parole perché non voglio, però... Le peggiori, quelle che si sentono di questi tempi in generale, so, vabbè, i parlamentari, sì, ma poi questi ladri, questi maledetti, lui e poi me, la mia famiglia, il mio partito. Vabbè, però Malan, purtroppo il clima è questo, almeno abbiamo ricostruito la verità. Non bisogna alimentarlo. Beh, no, certo, quello che si può fare è ricostruire la verità dei fatti. Poi però se lo si alimenta, qualche settimana fa, non dimentichiamo che è venuta una persona a sparare a casaccio dicendo che voleva sparare un politico, quasi come se fosse una scusante. No, ma questo no. Allora, io però vorrei introdurre questo argomento. Non sparate sul pianista, dire. In questo caso ci concede la battuta, proprio non sparate sul pianista o sul non pianista. Allora, voglio fare questa domanda secca prima delle informazioni sul traffico. Io veramente sono impazzito a scoprire, Vladimir Luxura, a scoprire anche questa mattina, che non solo c'è il comitato dei 35 saggi più i 7 scribi, perché ci sono anche gli scribi, perché devono scrivere quello che i saggi produrranno. Tutto questo verrà offerto a un comitato dei 40, fatto da 40 parlamentari, che si costituirà a ottobre, che dovrà scrivere le riforme che il Parlamento dovrà poi approvare. Ma vedi che c'è ha ragione Berlusconi quando dice che ci sono i comunisti in giro, sembra un soviet. Sì, più o meno un soviet. Una struttura burocratica. Quando ci sono queste cose, credo che si allunghino un po' i tempi prima di realizzare qualcosa. Però c'è il cronoprogramma, quindi in 18 mesi, Letta anzi ha detto potremmo anche fare prima, in 18 mesi c'è il cronoprogramma, quindi dovrebbero rispettare tutto. Poi Vladimir Luxura dice il soviet perché mi risulta che è stato in Russia. È vero che si riduce in Russia? Sei andato a certificare il divorzio di Putin? No. Sì, no, tra l'altro la religione ortodossa consente il divorzio, quindi da questo punto di vista Putin, stando in Russia, è più, diciamo, tollerato di un Berlusconi qualunque che sta in Italia, quindi è più tollerato dalla religione. Adesso invece ci tengo a dire che sono alle Tremiti, alle isole Tremiti in questo momento. Ah, fantastico, perché domani insieme al sindaco e alle associazioni metteremo una targa alle isole Tremiti in ricordo degli omosessuali confinati proprio qui durante il fascismo. Ok. 24 mattino. Vorrei parlare agli italiani. Hanno votato 10 milioni perché Berlusconi aveva promesso che toglieva l'IMU. Va bene? Adesso, mi raccomando, se Berlusconi gli promette un piatto di lenticchie, lo mandassero al Quirinale. Tutto il mondo ci invidia questa persona. Bello Berlusconi, quanto è buono, quanto è bravo, quanto è dolce. Più bravo di quello non c'è nessuno al mondo, mi raccomando, mandatelo al Quirinale. Buongiorno Mila, ma mi puoi spiegare questi saggi a che cazzo servono? Dico, già siamo allo stremo di pagare gentaglia al governo, gentaglia, ma cosa gli servono questi saggi? Chi è? Mosè? Non lo so. Io vorrei chiedermi, per quale motivo paghiamo i nostri politici? Per quale motivo devo prendere tutti quei soldi che prendono? Perché non ci diamo per danni i ministri che fino adesso ci hanno governato e hanno portato il paese al disastro e sul baratro su cui si trova? Perché non chiediamo loro i danni? Perché non li facciamo lavorare come operai, perché capiscano che significa lavoro, che significa responsabilità, che significa senso del dovere? Caro Milan, io ho capito la vera funzione dei 45 e più saggi per le riforme istituzionali. L'esempio loro signori lo hanno preso dalla tragedia del Titanic. La loro commissione avrà la funzione che aveva l'orchestra che suonava sul ponte della nave mentre affondava. Distrarre le menti dalla tragedia e dalla responsabilità. Vabbè, diciamo c'è questo ottimismo, ha sentito senatore Malan, questo ottimismo nei confronti dei saggi e dei politici, no? Come gentaglia, perché li paghiamo, perché non vi citiamo per danni. Diciamo. Sì, e vede, quello che ieri è emerso con, a mio parere, chiarezza, ma sono sicuro che poi alla fine la cosa non sarà chiara, e cioè che sono state dette delle menzogne a proposito di alcuni politici, succede tutti i giorni, perché tutti i giorni vengono pubblicate delle notizie false. Naturalmente la maggior parte delle notizie sono vere, però tutti i giorni vengono pubblicate notizie false. Alcune false. Delle notizie false, appunto. Tipo, ieri ho visto che viene scritto che al Senato si apre il ristorante a spese del contribuente, mentre invece sarà un servizio pagato interamente dai senatori. Sì. Per fare un esempio, e naturalmente questo viene visto come un delitto mostruoso, tra l'altro, quando invece dappertutto ci sono delle mense o ci sono delle mense a prezzi molto ribassati o c'è il ticket restaurant e così via. Però appunto è chiaro che quando la menzogna è sistematica, allora è chiaro che i politici sono tutti dei delinquenti. Ho capito, ma questo no. Lavorare perché si presume che un politico non abbia mai questo lavorato. Questo no, Malan, io lavoro dall'età ma di 15 non crede anni, che non qualche non crede che qualche colpa in passato, qualche esagerazione l'avete compiuta come classe politica per cui adesso la gente fa pagare un po', no, un po' tutto? Sono sicuramente stati degli sbagli e ci possono essere stati degli eccessi, ma siccome per esempio nessuno riporta che negli ultimi anni il trattamento economico dei politici è sceso del 30% in termini reali, e tutti dicono guarda, tutta l'Italia fa i sacrifici e quelli si aumentano ancora. Ogni giorno da 10 anni gira su internet una cosa, e qui la cosa incredibile è che molti ci credono perché il clima è quello, ma il clima non è quello da solo, perché viene suscitato, dove c'è scritto ieri si sono votati un aumento, non mi ricordo sì, più cosa. Sì, lo so, l'ho letto anch'io una cosa. Vabbè, c'è tanto, però Vladimir Luxuria, come insomma, Lucio Malan difende giustamente la categoria dei politici di fronte alle accuse. No, va bene, nel senso, di fronte alle accuse, di fronte alle accuse anche di dire non lavorano, non fanno niente, sono gentaglia, sono questi effettivamente sono, devo dire, noi li raccogliamo, Vladimir, sono sfoghi delle persone, ecco, poi noi siamo massimamente liberi e raccogliamo lo sfogo di tutti. C'è troppo qualunquismo, Vladimir, secondo te? Beh, intanto ricordiamo che la classe politica votata comunque dalla gente, che quindi, ma sicuramente credo che alcune vicende come quella soprattutto dei rimborsi, cioè di quando gente che fatica a arrivare a fine mese ha saputo di inchieste giudiziarie legate a persone che avevano chiesto dei rimborsi per delle cravatte o per alcune cene a base di caviale pagati comunque dai contribuenti perché comunque facevano parte del finanziamento pubblico dei partiti, questa cosa ovviamente fa salire tanto la rabbia, quindi credo che agire su questo fronte significa riprendere un po', come dire, il polso della situazione, perché altrimenti insomma qualche colpa ce l'ha sì, la sì, ma quello politica, poi è successo più alle regioni, il Parlamento è un'altra cosa. Senatore Malan, noi abbiamo un minuto per chiudere, ha fatto i calcoli per Andreotti l'ultima volta che l'abbiamo sentita? Perché sai, Vladimir Luxuria, che dobbiamo dare circa un milione di euro agli eredi di Andreotti, quanto? Allora sembra che l'assegno di fine mandato sì, in sé è di 500, dovrebbe essere intorno ai 500.000 euro. 500.000 euro, però c'era la vicenda di un'assicurazione sulla vita. E poi c'è l'assicurazione, che però è una cosa diversa, lì l'importo è unicamente a carico dell'assicurazione, perché l'assicurazione è già pagata, anche che lui morisse, che lui non morisse, si pagava il premio. Che è incredibile sta cosa, no? Vladimir Luxuria, c'è un'assicurazione sulla vita per i senatori a vita, che quindi sicuramente muoiono in servizio essendo a vita, ma com'è possibile una cosa del genere? Però insomma, quindi 500.000 più, quanto arriveremo a tutto? Ma credo che siamo quello dell'importo dell'assicurazione sulla vita, io so, perché mi ero informato quando avevo avuto la possibilità di doverla usare in modo abbastanza impellente, non a beneficio mio ma dei miei eredi, ed è commisurata all'età, e per cui credo che quando si arriva a 94 sia davvero molto bassa. Molto bassa. Comunque il Senato deve dare 500.000 euro più o meno come assegno. In realtà sono soldi accantonati, sì, certo, come tutti, certo, i trattamenti, certo, di fine, certo, rapporto, certo, anno per anno, quando una ditta privata che come il Senato dopo tre mesi non ha ancora pagato avrebbe dei grossi problemi. No, ma è chiaro, guardia di finanza. L'avevamo spiegata l'altra volta, 500.000 euro. No, detto questo va bene, tutto corretto, però mi chiedo, non è forse troppo? Sì, ma è quello che ha accantonato, è il TFR, d'altronde è stato in Parlamento 60 anni, quindi è tutto secondo la legge. Però io vi ringrazio per essere stati con noi, Vladimir Luxuria, Lucio Malan, l'abbiamo svegliata alle 6.30 e quindi, vabbè, ma insomma, come vede, la sento con una voce squillante, dunque proficuo. È proficuo, benissimo. Grazie per essere stati con noi, è momento del giornale radio, ci ritroviamo subito dopo alle 7.15 per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:23 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua pronti a leggere i giornali per voi, e vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Pensioni d'oro, così le hanno definite. Vi ricordate il contributo di solidarietà per chi ha una pensione sopra i 90.000 euro votato dal governo Monti, bla bla bla bla bla bla? C'è stato un ricorso alla Corte Costituzionale che ha giudicato tutto incostituzionale. Avremo il capo dei ricorrenti, è un giudice amministrativo, Giuseppe Bozzi, ai nostri microfoni alle 8.15. Lui ha fatto richiesta alla Corte dei Conti, che è ricorsa alla Corte Costituzionale, e voilà. Con noi ci sarà anche l'onorevole Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che ha tuonato, è uno scandalo questa cosa. Investiremo del problema del presidente Napolitano, le pensioni. non più ricche, non per tutti però, i giornali. Venerdì 7 giugno e proprio sulle pensioni apre il Sole 24 Ore, ecco le nuove pensioni, così scatteranno i tagli, che accostamento che fa amarezza, così scatteranno i tagli, ma non per tutti, cari italiani. Questo è il titolo di apertura di prima pagina. Per il Corriere della Sera, riforme, c'è il primo passo, il che dà spunto su Avvenire a fare un titolo che io, scusate, ma sul mio profilo Twitter, Alino Milan, mi diverto molto a dire, a contare le settimane decisive per le province, eccetera. Cosa titola in prima pagina Avvenire? Riforme, prova decisiva. Eccolo lì, vedete che è veramente la prova decisiva. Per Repubblica, Berlusconi, ricatto sull'Europa, è libero Silvio, via da questo euro. È un'intervista che Berlusconi ha fatto al Foglio e che fa discutere. Il Fatto Quotidiano, Napolitano contro il Fatto, vietato far domande su di lui. Il Messaggero apre sul lavoro, sgravi a giovani aziende. L'Unità, Renzi, pronti a candidarsi. Vabbè, ma devo andare un po' più veloce con le aperture, se no non riesco a leggere nulla prima della pubblicità. Reggo solo l'apertura della Stampa. La Stampa, da qui voglio partire, la voce di Quirico, sto bene. Oh, finalmente, cari italiani, una buona notizia. Ieri parlavamo proprio di Siria. Domenico Quirico, ieri mattina dicevamo da 60 giorni non dà più notizie di sé, invece si è manifestato poi dopo il pranzo con una breve telefonata, ovviamente in una situazione molto delicata, tutta da chiarire, ha telefonato alla moglie, come scrive il direttore della Stampa Mario Calabresi in prima pagina, più forte il filo di speranza. Ieri, subito dopo pranzo, è arrivata la telefonata che aspettavamo da 58 giorni. Domenico Quirico ha chiamato la moglie Giulietta per dirle che sta bene, che per tutto questo tempo è stato tenuto prigioniero, ma che è ancora in Siria. Potete immaginare l'emozione fortissima di saperlo ancora vivo, la voglia di poterlo riabbracciare al più presto, miste all'ansia di una soluzione che non è ancora acquisita. In tutto questo tempo non abbiamo mai abbandonato la speranza, perché Domenico è persona solida, tenace, esperta, ma la storia non si può dire finita. Molti dettagli non sono chiari, la comunicazione è stata brevissima. Certo, la fase è molto delicata, come ha detto il ministro degli esteri Emma Bonino, però insomma vi assicuro che l'ottimismo cominciava a lasciare spazio al pessimismo mentre passavano i giorni, perché davvero non si sapeva nulla della sorte dell'inviato della Stampa. Oggi invece tutti i giornali, ovviamente la Stampa lo mette in prima pagina, ma anche tutti gli altri quotidiani come il Corriere dedica due pagine, Quirico telefono a casa, sono vivo, sto bene. Ovviamente c'è tanta ansia, ma anche una speranza che si è alimentata e speriamo davvero che si possa concretizzare nei prossimi giorni. Oh, voglio citare brevemente quello che viene definito dall'Espresso al villaggio dei politici. L'Espresso oggi fa un'inchiesta che viene ripresa anche dal Fatto Quotidiano, secondo la quale la Valtour avrebbe in passato pagato delle vacanze gratis a politici, il presidente del Senato Renato Schifani per esempio, ma anche le vacanze scontate ai parlamentari anche a Totò Cuffaro, uno sconto anche per Alfano. Ospite anche a Brignani, onorevole, tra gli ospiti delle strutture turistiche, ma c'è anche il figlio di Cossutta, Dario Cossutta, figlio del leader comunista e fino al novembre del 2000 amministratore delegato di Sviluppo Italia, brindato al Capodanno 2000 in Egitto sulla nave Valtour con la moglie e tre figli. Abitué dei villaggi che, scrive l'Espresso, erano vacanze in alcuni casi scontate, come il caso Alfano, oppure a sbafo, pagate totalmente dalla Valtour, come nel caso, secondo l'Espresso, di Schifani. Vabbè, staremo a vedere se è davvero così. Ci sono tante sviluppi anche sulla vicenda Cucchi. Ancora sui giornali c'è la solidarietà che avete sentito anche in voce del ministro Cancellieri, che non giudica la sentenza ma esprime grande solidarietà nei confronti della famiglia Cucchi. Ci sono anche le polemiche per quei diti medi o quelle dita, insomma, alzati in gesto molto irriverente nei confronti dei familiari di Cucchi che urlavano assassini dopo la sentenza. C'è questa foto che è stata immortalata, è stata messa dal Corriere della Sera ieri, raccontava Giovanni Bianconi, quel dito medio alzato nei confronti dei parenti che urlavano assassini. Ora viene riproposta la foto oggi a pagina 23, un agente assolto giustifica i gestacci, quel dito alzato è soltanto uno sfogo, quel gesto, dice uno degli agenti penitenziari che è stato assolto in primo grado, quel gesto era la risposta al comprensibile sfogo di un momento dopo 3 anni di attacchi, insulti. Un avvocato degli agenti penitenziari dice: non so chi sia stato, ma non credo che le dita alzate siano più gravi delle urla assassini che ci piovevano addosso. Beh, davvero non c'è e non si smonterà la polemica per vari giorni, dopo che Stefania Cucchi ha detto anche Ilaria Cucchi ha detto anche: i medici condannati non sono degni di vestire il camice bianco. Parla uno di questi, Aldo Fierro, primario dell'ospedale Pertini, che è stato condannato a 2 anni, viene intervistato da Repubblica e dice: io non sono un delinquente, non potevo fare nulla per evitare la morte di Cucchi, rispetto il dolore dei genitori, preferisco non rispondere alle domande, ho saputo solo che Cucchi è arrivato il pomeriggio delle 20 alle 18, il pomeriggio del 20 ottobre alle 18 ed è morto alle 3 di notte del 22 ottobre, feci predisporre una lettera da inviare al magistrato comunicandogli gli innumerevoli rifiuti del paziente. Dopo il caso Cucchi abbiamo avuto un altro paziente oppositivo, così lo chiama, cioè che non collabora, che rifiuta le cure. Informammo il garante dei detenuti della Regione Lazio, il quale ci rispose affermando che non potevamo costringere il detenuto a sottoporsi alle cure. Non potevo fare nulla per evitare la sua morte. Come è stato trattato Stefano, risponde il primario, come i 2.500 malati ricoverati nel reparto, anche se tutto viene complicato dai rifiuti e dalle opposizioni che il detenuto ha sempre manifestato. Insomma, si difende: non sono un delinquente, ma certo su questa sentenza, che poi avrà un appello eccetera in terzo grado, davvero non si placano le polemiche. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui alle 7:36 minuti, faccio anch'io un sospirone. Posso? Sì, faccio un sospirone. Ho quasi spaccato le cuffie poco fa, ve lo dico, è successo, mi sono cadute, sono inciampato. E allora, come detto, le riforme, c'è il cronoprogramma. Ieri, io ripeto, mi criticano, mi sono arrivate mail di critica a dire: ma guardi che le riforme sono importanti, lei ridicolizza le riforme. Ma Dio solo sa quanto siano importanti le riforme, vorrei che venissero fatte. Il problema è che vorrei che venissero fatte da 20 anni e che vorrei che venissero fatte, appunto, e non che si facessero queste chiacchiere, comitati di saggi, comitati dei 40. Adesso c'è il cronoprogramma, perché attenzione, voi pensate che la vicenda si sarebbe chiusa con il comitato dei 35 saggi più 7 scribi, i 7 che dovranno scrivere quello che i 35 saggi produrranno. No, adesso nascerà anche il comitato dei 40, 20 parlamentari della Repubblica Italiana, 20 senatori della Repubblica Italiana, che a ottobre verranno insediati. Dunque avremo un comitato di 35 saggi, 7 scribi che produrranno le cose che dovranno essere sottoposte a un comitato di 40 che le esaminerà e che le approverà e che poi dovrà tutto essere esaminato dal Parlamento per essere approvato. Ma cosa pensate che possa venire fuori? Comunque bisogna essere fiduciosi. Ieri Napolitano, nel presentare tutto, ha detto: fare presto e bene, e ha detto: non cediamo al pessimismo, noi la seguiamo, caro Presidente della Repubblica, anche se, ha detto lo stesso Napolitano, come racconta il Corriere della Sera pagina 3, ci sarebbe qualche argomento serio per essere pessimista in materia di riforme. Stavolta però la situazione è così grave che non possiamo permettercelo. In definitiva, non possiamo fallire. Avvenire titola: prova decisiva. Questo in prima pagina. E anche, guardate, uno dei saggi, Francesco Clementi, interviene con un intervento sul Sole 24 Ore, pagina 15, siamo in zona Cesarini, no? Questa immagine calcistica, cioè proprio allo scadere dei minuti, è ora di agire. Francesco Clementi, senza pregiudizi ideologici, mettendo a disposizione della politica e delle istituzioni la possibilità di decidere con profondità e accuratezza l'informazione sulle riforme da proporre al Parlamento, tenendo conto conto pure delle conseguenze e ricadute che ogni scelta di modifica costituzionale può comportare. È così, in fondo, il senso e lo spirito della commissione di studiosi che è nata su impulso del presidente Letta, un organismo che deve consentire prima al comitato dei 40 parlamentari e poi al Parlamento tutto di poter legiferare in piena scienza e coscienza. Ecco, lui stesso dice e scrive in maniera molto istituzionale che il meccanismo è quantomeno un po' complicato. A un certo punto scrive ancora Francesco Clementi sul Sole 24 Ore, trovate a pagina 15, è uno dei 35 saggi, per cui anche in linea con la mozione approvata in Parlamento qualche giorno fa, finalmente si può dire che si è fatto il passo necessario che tutti si aspettava. Alea iacta est, dunque. Non da ultimo, perché solo un governo e una maggioranza parlamentare fondati su una formula politicamente anomala e eccezionale possono consentire di cambiare la nostra Costituzione. Insomma, si dice, alla fine poi decidono governo e Parlamento. Ma prima i saggi, gli scribi, il Comitato dei 40 e via. Ecco la convenzione per le riforme, così anche pagina 3 di Repubblica. La nuova Costituzione sarà pronta entro il 2014. Qui si dà sfogo veramente all'ottimismo più sfrenato. Il Fatto Quotidiano invece ingaggia una battaglia con quello che viene definito Re Giorgio, dopo l'intervista ieri a Barbara Spinelli, in cui Napolitana ha risposto dicendo non c'è assolutamente nessun governo già del presidente e non c'è nessun mandato a termine per Letta. C'è questa polemica tra Il Fatto e Napolitano contro Il Fatto, mai dato scadenza al governo, così a pagina 2. Insomma, questo è il tema più forte della politica, unito a un'intervista, o meglio un colloquio, che Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, fa con Silvio Berlusconi. Braccio di ferro a Berlino, questo è il titolo di prima pagina del Foglio. Ha reso conto del pranzo che Ferrara racconta: Berlusconi mi ha invitato a pranzo, parla un po' di giustizia, dice che la sentenza, secondo Ferrara, la sentenza che lo condanna a 4 anni in appello è un omicidio politico, ma lui si esprime con cautela ed evita questa dizione come la peste, ma è ciò che pensa, scrive Giuliano Ferrara. Silvio Berlusconi infatti dice: ho sostenuto Monti nella fase critica, ho accettato che per un periodo limitato una soluzione tecnocratica riaprisse spazi che sembravano chiusi, insomma sono stato responsabile, dice Berlusconi, mentre ora trovo poco sostegno. Ma la parte più interessante dell'intervista è quella che rilancia la questione dell'economia. Intanto, per l'economia van fatto e subito che cosa? Alleviare le tasse sul lavoro, risolvere il grosso guaio dell'IVA, fare attenzione anche all'IVA, non tanto per l'inflazione, che non è un rischio, quanto per la depressione dei consumi, e poi rilanciare l'edilizia, radicalmente riformare i regimi autorizzativi, mettere tutti in grado di dare una mano, creando lavoro, profitto di impresa in un contesto di formidabile liberalizzazione. Ma non basta ancora, e sembra di sentire parlare uno che si appresta a governare i prossimi 20 anni, non quelli appena passati, o alcuni di quelli appena passati. Comunque Berlusconi poi a un certo punto se la prende con l'Europa. Ecco, sull'Europa si misura la vitalità di un governo, scrive in questo colloquio con Ferrara, oppure la sua complicità più o meno consapevole con le forze negative e paralizzanti che premono contro una soluzione effettiva della crisi da recessione. Bisogna che il governo sappia con autorevolezza ingaggiare un braccio di ferro, questa è l'immagine che regala, senza strepiti, ma con grande risoluzione, in particolare con la Germania di Angela Merkel. Siamo di fronte a un'alternativa secca: o si rimette in moto in forma decisamente espansiva il motore dell'economia, uscendo dalla paralizzante enfatizzazione della crisi da debito pubblico, oppure le ragioni strategiche della solidarietà nella costruzione europea, dall'unione bancaria al resto, si esauriscono e si illanguidiscono fino alla rottura dell'equilibrio attuale. Questa è una frase, come dire, viene tradotta addirittura da Libero in prima pagina così: Berlusconi, via da questo euro. Questo è il titolo secondo Libero. Insomma, il braccio di ferro a Berlino, questo è il titolo, la sfida che Berlusconi lancia tramite Letta alla Germania. Il governo deve avere la forza di fare questo braccio di ferro con la Germania, altrimenti, avete sentito, si perdono anche le ragioni della solidarietà nella costruzione europea. Tanto che Ferrara chiede: cosa vuol dire questo in termini più semplici? Vuol dire che paesi del peso, della consistenza del nostro, non possono accettare una situazione in cui fare impresa non è più conveniente, in cui bisogna delocalizzare, ristrutturare fino alla distruzione di ricchezza. Un'Italia che perde ancora peso e ricchezza oltre quello che ha già perso, pronta a essere messa all'incanto con metodi egemonici da chi è in posizione di forza, non è per noi uomini del nord e per noi imprenditori e politici di un paese che in parte è ancora da risanare una prospettiva accettabile. Berlusconi che fa le parole grosse. Trovo questa notizia invece che riguarda Romano Prodi, e la trovo solo sul Quotidiano Nazionale, a pagina 7, che fa fare davvero un tuffo nel passato. Ricordate il pullman di Prodi del 1995? Ritiriamo fuori il pullman. La tentazione di Prodi, l'idea è quella di fare un nuovo tour dell'Italia con partenza il 16 luglio dalla Romagna, così racconta Massimo Gagliardi sul Quotidiano Nazionale a pagina 7. Lo stesso Quotidiano Nazionale però si chiede: ma a far che? Bah, intanto si scaldano i motori, pare che il pullman sia finito, un vecchio Fiat Iveco a gasolio e quindi da rifare, sia finito in un capannone a Sant'Ilario Denza. L'idea è questa, non so se può uno scoop oppure una butade. La tentazione di Prodi: ritiriamo fuori il pullman dal 16 luglio, un tour per l'Italia per rilanciare la sinistra. Ma ve la giro così come l'ho trovata. In tutto questo la situazione delle pensioni, e da qui ripartiamo tra poco dopo il traffico, è una situazione che vede virare al negativo per le pensioni, un futuro al ribasso, cari italiani, ma come spiegheremo alle 8.15, non per tutti, non per tutti. Allora, le pensioni, vediamo cosa riusciamo ancora a darvi in questa mini rassegna stampa. Le pensioni diminuzione per il futuro, non per tutti però. Come detto, noi parleremo del fatto che il contributo di solidarietà che era stato introdotto in passato è stato bocciato dalla Corte Costituzionale per un ricorso che è stato fatto dalla Corte dei Conti, mossa da un giudice amministrativo e anche da una categoria dei giornalisti in pensione. Ebbene sì, poi spiegheremo il tutto. Le pensioni invece di tutti gli altri italiani al ribasso, così sentenzia il Sole 24 Ore, Davide Colombo a pagina 3. L'allungamento della speranza di vita degli italiani continuerà a far calare gli importi delle pensioni future. Questo è sentenziato appunto nell'articolo che trovate a pagina 3. Una nuova quantificazione del fenomeno arriva da una stima della variazione dei coefficienti di trasformazione, ovvero il moltiplicatore con cui nel sistema di calcolo contributivo si trasforma il montante dei versamenti effettuati negli anni di lavoro in pensione. Cose molto tecniche, per chi si vuole addentrare, il risultato questo non cambia, visto che aumenta l'aspettativa di vita, la prospettiva per le vostre pensioni al futuro è che siano al ribasso, che calino. Ne parleremo alle 8.15, non tanto delle pensioni in generale, ma di questo contributo di solidarietà sulle pensioni che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Con noi avremo il capo dei ricorrenti e avremo l'onorevole Giorgia Meloni, che si è molto arrabbiata con Fratelli d'Italia per questa vicenda. La politica poi cos'è? Allora, per chiudere, tutta qui. Letta e Renzi, che non si sa, Renzi che un giorno sì, un giorno no, non si sa che cosa faccio. Secondo l'Unità, pagina 2, è pronto a fare il segretario. Oggi Iena lo graffia così sulla stampa: il dottor Matteo Renzi è gentilmente pregato di farci sapere al più presto cosa farà da grande. Questa pagina 3 della stampa. Mentre Bossi pare che di fronte ai 200 sostenitori che sono presentati a Brugherio ieri, alla prima uscita pubblica dopo l'intervista in cui ha detto Marroni è un traditore, mi riprendo la Lega, voglio fare il segretario, ecco, il Corriere della Sera dice 200, uno sparuto gruppo di sostenitori a Brugherio, alla domanda: allora Bossi fa il segretario, torna a fare il segretario? Lasciamo perdere. Pare che abbia risposto così, forse di fronte, cioè, prendendo atto che almeno la prima uscita pubblica non è stata delle più entusiasmanti. I 5 Stelle invece, a parte la questione dei pianista, finto pianista che poi non è stato un pianista, Lucio Malan, che era nostro ospite alle 6.30, ci ha spiegato che era semplicemente fuori postazione, si è girato ma ha votato al suo posto, al suo proprio posto, dunque una topica colossale quella di additarlo in questo caso come pianista. Ma al di là di questo ci sono state delle polemiche perché per le nomi delle commissioni. Allora, è vero che Roberto Fico è stato nominato del 5 Stelle alla vigilanza Rai, ma c'è il senatore Giarrusso che ha dato di matto perché confidava di essere eletto alla giunta per le elezioni, quella giunta per l'autorizzazione a procedere, alla quale invece è stato insediato poi uno di SEL, Stefano, Dario Stefano. E allora il senatore Giarrusso, arrabbiatissimo anche col capogruppo al Senato Crimi, perché Crimi doveva arrivare a votare per Giarrusso, si è perso. Non è, si è perso per Roma. Ha detto: non trovavo il palazzo, è arrivato in ritardo, Vito Crimi non è riuscito a votare. Che Giarrusso, c'è questo video in cui uscendo ha detto: chiedete a Vito Crimi perché non sono stato eletto. Poi lo incrocia e Vito Crimi: ma scusa, sono arrivato in ritardo. E lui: ma va, vattene, no? E è finita così. E Giarrusso oggi fa un'intervista a Repubblica: nel movimento ci sono infiltrati pro Berlusconi. Questo sentenzia, dice: è un disastro, il problema è quello che è successo in giunta, hanno eletto in giunta al mio posto una specie di democristiano che non si sa com'è finito a SEL, questo Stefano, uno che ha quel compito, salvare Berlusconi, si sono messi tutti d'accordo. Beh, ma l'accusa è grande, sta dicendo che nel suo movimento qualcuno ha voluto favorire il cavaliere. Dice Giarrusso, dico che c'è qualcuno nel movimento che va segnalato a Beppe per mandarlo a fanculo come merita. Così il senatore Giarrusso, intervistato da Annalisa Cuzzo Crea su Repubblica, trovate l'intervista pagina 6 e 7. L'eletto alla commissione, Dario Stefano, beh, un po' se la prende, intervistato dal Messaggero, dice: ma che io infiltrato dell'UDC non vorrei commentare queste cose, io vivo la fiducia che mi è stata accordata, mi spiace che sono state dette certe cose, io non sono mai stato dell'UDC, fu eletto per la prima volta in consiglio regionale in Puglia come indipendente nella Margherita. Poi però la domanda decisiva che è questa: senta, ma Berlusconi è ineleggibile secondo lei? Perché questo è il dossier che verrà affrontato dalla giunta. Ha visto cosa ha detto il senatore Casson del PD? Ci vorrà molto tempo prima di arrivare a una deliberazione? Ecco, bisognerà prima guardare le carte. Non so neanche se le carte già ci sono. La prossima settimana convocherò l'ufficio di presidenza e vedremo. Infatti il titolo dell'intervista di Claudio Marincola è: cavaliere ineleggibile, devo prima studiare le carte. Insomma, polemica per questa, polemica anche per la nomina al Copasir. Il comitato dei servizi segreti è andato a un leghista e allora Claudio Fava di SEL si lamenta. Però SEL ha preso la commissione della giunta elezioni a procedere. E Claudio Fava, intervistato dal Manifesto, dice: c'è stato un veto sul mio nome, chiedetelo al mio partito, sono arrivate pressioni molto forti contro il mio nome. Secondo il Manifesto le pressioni sono anche legate al fatto che quando lui era eurodeputato e si impegnò contro gli Stati Uniti per le cosiddette extraordinary rendition, cioè quando la CIA andava a prendere i terroristi e li portava nelle basi americane, ecco, questa ostilità americana avrebbe pagato SEL e in questo caso Fava per essere nominato a capo della commissione. 24 mattino. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, oggi se uno prende la prima pagina del Sole 24 Ore trova questo titolo in prima pagina: ecco le nuove pensioni, così scatteranno i tagli. I tagli per tutti. Ma come dire, noi vogliamo parlare di una vicenda invece che ci riporta a qualche anno fa. Ricordate il contributo di solidarietà, quella tassa che fu messa quel prelievo una tantum fu messa nell'estate del 2011 per chi aveva le pensioni sopra i 90.000 euro con meccanismi progressivi, cioè prelievo del 5% per chi aveva una pensione sopra i 90.000, del 10% oltre i 150.000, del 15% oltre i 200.000. Ecco, vi ricordate quella cosa lì? Ecco, scordatevela perché la Corte Costituzionale ha deciso che tutta questa norma è incostituzionale, lo ha fatto fatto perché la Corte dei Conti ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale e perché alcune persone hanno fatto ricorso alla Corte dei Conti, che quindi ha chiesto alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha deciso. Dunque la sensazione che ci sia una sorta, come sempre, di Italia a due velocità o a due o a tre velocità, questa almeno è la sensazione credo che abbia avuto l'onorevole Giorgia Meloni, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia tra poco ci spiegherà anche il motivo della rabbia che vi ha portato addirittura a fare un flash mob, a lanciare monetine ieri contro la Corte, contro la sede della Corte Costituzionale. Però onorevole Meloni, le voglio presentare colui che ha posto il problema, una delle persone che ha posto il problema alla Corte dei Conti, poi arrivata in Corte Costituzionale, è Giuseppe Bozzi, che è stato già presidente di Tare, un giudice amministrativo in pensione che saluto, buongiorno. Dottor buongiorno Bozzi. A lei. Lei è un po' la persona che ha fatto muovere tutto questo meccanismo. Insomma, io sono uno dei tanti. Uno dei tanti. Perché siamo stati all'incirca una settantina di colleghi. Magistrati del Tribunale Amministrativo, magistrati del Consiglio di Stato, magistrati ordinari e anche della Corte dei Conti. E che dice dottor Bozzi? Qua l'idea è che ci sia un'Italia per tutti e un'Italia per pochi che viaggiano su due corsie separate. Che siano stati preferiti rispetto ad altri cittadini. Insomma, la sensazione. Io non lo so se l'onorevole Meloni mi ascolta. Sì, certo che l'ascolta. Ecco, allora guardi, la questione va esaminata esclusivamente sotto un profilo giuridico e non sotto un profilo di prevalenze nei confronti di una certa categoria sociale, con aspetti negativi nei confronti di un'altra categoria sociale. Qui bisogna prendere l'inizio da una certa legge, da un decreto legge del 6 luglio 2011, eccetera, che stabilisce, emana disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Cioè è un testo legislativo che secondo gli intendimenti del governo avrebbe dovuto nel complesso contribuire al risanamento delle gravi condizioni della in parte, cioè risanare in parte con un contributo di solidarietà. Mi scusi. Adesso le spiego, e quindi con questo scopo, con questa precisa finalità giuridica, è stata emanata una legge che a un certo articolo dice così: in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, è tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, Ma dottor Bozzi, va bene, mi scusi perché i tempi radiofonici, mi permetta, sono un po' più stringenti rispetto a quelli. Quindi questo. Ve lo dico in due parole. Ecco, mi dica in due parole. Con questa legge, praticamente, che avrebbe dovuto essere. Avrebbe dovuto contribuire al risanamento delle gravi condizioni dell'economia pubblica e quindi con la partecipazione di tutti i cittadini, in base all'articolo 3 della Costituzione, questa legge sostanzialmente dice, guardate, che per raggiungere questo scopo i trattamenti pensionistici, quindi solo dei pensionati, Ma ha detto due parole, mi scusi Presidente Bozzi, ma ha detto due, me lo diceva in due parole. Facciamo così, la questione è questa. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale è stata fatta una cosa irragionevole e discriminatoria nei confronti di una sola categoria di cittadini. Cioè alcuni cittadini, togliendo questa parte di pensione, sono stati considerati meno uguali di altri e quindi questa è la motivazione stringente per cui la Corte Costituzionale ha bocciato questo. Però tra poco ce lo rispiegherà, perché ci sono molte critiche su questo. Perché, onorevole Giorgia Meloni, questa cosa vi ha dato così fastidio? Ma guardi, io sono francamente basita, sono anche basita quello che ho appena ascoltato. Cioè, perché questa cosa ci ha dato così fastidio? Perché probabilmente, segnalo, diciamo, alle persone che ci stanno seguendo, perché in un momento di crisi economica nel quale noi stiamo chiedendo sacrifici drammatici a tutta la popolazione italiana, pensavamo fosse, diciamo, il minimo sindacale chiedere a chi prende in Italia pensioni che vanno oltre i 90.000 euro un contributo di solidarietà del 5%. Attenzione, non del 5% sulla pensione, del 5% sulla parte eccedente. Sì. Spiego. Se uno prende in Italia una pensione da 150.000 euro l'anno, quello che noi gli stiamo chiedendo è un contributo del 5% su 60.000 euro. Okay. Quindi se fosse 92.000 euro, il 5% su 2.000 euro. Quindi su 2.000, esattamente. Ora parliamo, voglio aggiungere questo elemento, anche alla Corte Costituzionale, perché io su questo voglio interrogare il Presidente della Repubblica, perché mo basta, adesso basta in Italia. Allora, noi non è che parliamo di pensioni per le quali sono stati pagati i contributi, come accade per, diciamo, la mia generazione. Sì. Parliamo di pensioni retributive, cioè parliamo di pensioni per le quali questi signori che prendono 100.000 euro, 150.000 euro l'anno di pensione, non è che hanno versato i contributi necessari, vanno col sistema retributivo, cioè quello che diceva che avresti preso l'80% della media delle tue ultime retribuzioni, a fronte di intere generazioni, quelle per le quali per intenderci è stato introdotto il sistema contributivo, che non avranno di fatto una pensione decente mai e lavoreranno tutta la vita per pagare i privilegi di qualcuno altro. Ora, è davvero e si può davvero dire che è incostituzionale chiedere a chi prende pensioni da 150.000 euro per le quali non ha versato i contributi, dare un contributo di solidarietà del 5% a fronte di una discriminazione che riguarda interessi? Per la Corte Costituzionale sì, per la Corte Costituzionale sì. Sa perché temo? Perché quelli della Corte Costituzionale sono tutti pensionati d'oro e sono gli unici in Italia che hanno la facoltà di deliberare in pieno conflitto di interessi, cioè anche su loro stessi, senza appello. Cioè hanno interpretato una norma che vale anche per se stessi. Le dico un'altra cosa, mi perdoni e mi taccio. Quando fu fatto il decreto Salva Italia c'era una norma di solidarietà sulle pensioni d'oro, ne abbiamo parlato. C'era anche il blocco delle indicizzazioni delle pensioni da 1.400 euro, che sono un contributo, diciamo così, di solidarietà sulle pensioni della povera gente, forse anche maggiore, no? Di prendere il 5% sopra i 90.000. Sì, anche quello è stato dichiarato incostituzionale? Non lo so, qualcuno ha fatto ricorso, non lo so, magari se qualcuno facesse ricorso... Ma adesso lo facciamo subito, però voglio dire, non è questo, no? Perché anche questo fatto qui non funziona per niente. Cioè la sensazione, se posso anche dire, che anche secondo lei ci sono due Italie, tra l'altro un'Italia un po' più un club esclusivo. Anche questa che diciamo a qualcuno ha fatto ricorso, la sensazione è che in Italia ci sia un sacco di povera gente che non ha tempo per ricorrere alla Corte Costituzionale sulle che fa lo Stato e che si porta a casa i tagli, e ci sta una piccola casta di persone che conoscono bene le pieghe della legge, che si mettono d'accordo fra di loro, che sanno come muoversi e che alla fine salvano sempre i loro interessi. Perché la Corte Costituzionale ha appena dichiarato incostituzionale il tetto al taglio del tetto agli stipendi dei manager, era incostituzionale, e non si può fare il prelievo di solidarietà sulle pensioni alte, però si può fare l'indicizzazione delle pensioni di 1.400 euro, e non si può fare il taglio agli stipendi dei magistrati. Questo è quello che è stato dichiarato incostituzionale negli ultimi mesi dalla Corte Costituzionale. Ma questa è un po' la sensazione che c'è. Dottor Bozzi, al di là, poi approfondiamo dopo la pubblicità, siccome Giorgia Meloni ci deve lasciare alle 8.35 e approfondiremo dopo la pubblicità, torneremo sull'aspetto giuridico. Però risponda a Giuseppe Bozzi a questa accusa che viene fatta in maniera esplicita, cioè sembra che ci siano due Italie, una quella delle caste, grandi o piccole che siano, in in questo caso anche di giudici della Corte Costituzionale, che dice l'onorevole Meloni giudicano anche per probabilmente un qualcosa che poi riguarda anche loro, essendo pensionati d'oro, e invece l'Italia di tutta la gente che invece non riesce a far valere i propri diritti come è in grado di far valere lei, per esempio. Bozzi. Sì, adesso le spiego. Questo provvedimento giuridico ha dimostrato che ci sono, come dice l'onorevole Meloni, due Italie, ma due Italie in senso negativo, in questo senso. Lo scopo di questa legge, come ho detto prima, era quello di far luogo al risanamento delle gravi condizioni dell'economia pubblica. Va bene? Allora, se questo è uno scopo importantissimo per tutto il Paese, evidentemente tutti i cittadini, in base all'articolo 3 della Costituzione, devono contribuire. Sono tenuti a correggere. Infatti l'onorevole Meloni dice là il blocco delle indicizzazioni c'è stato, delle pensioni di 1400 euro, subito. Mentre questo no. Vede, noi abbiamo proposto ricorso e abbiamo detto, non abbiamo detto, come erroneamente sostiene l'onorevole Meloni, non abbiamo detto non vogliamo corrispondere questa imposta, perché è un'imposta. Ma avete detto? Abbiamo detto, noi non ci rifiutiamo di corrispondere questa imposta. Ma paghino tutti. Ma noi vogliamo, perché la legge non ne ha tenuto conto, vogliamo che la stessa imposta sia corrisposta anche dai cittadini che non sono pensionati o magistrati. Ah, ecco, gli avvocati, i medici. I commercianti. È molto chiaro, ha capito onorevole Meloni, ecco. La questione è perché devono pagare solo le categorie indicate e non tutti, e quindi o tutti o nessuno, risultato nessuno in questo caso, onorevole Meloni. E bene o male uno cerca, e bene o male, di mettere in piedi dei provvedimenti che possano chiedere comunque a chi ha avuto di più di dare qualcosa di più, e poi si trova sempre un escamotage perché questo non accada, con la scusa, no, noi vogliamo che lo facciano anche gli altri, volete che lo facciano anche gli altri, cominciate a dare il buon esempio, come hanno fatto i politici, perché quando noi mettemmo il contributo di solidarietà sugli stipendi sopra i 90.000 euro, quel contributo di solidarietà sugli stipendi è stato anch'esso dichiarato incostituzionale, guarda un po', dalla Corte Costituzionale, con la stessa motivazione, e gli unici che lo pagano, ringraziando Dio, sono i politici, perché essendo noi un organismo di governo, la Corte Costituzionale su di noi, diciamo, non può deliberare. Sì, certo. Ok? E quindi noi che abbiamo detto anche noi, no, se lo dobbiamo pagare lo devono pagare tutti, no, abbiamo detto, se siamo la classe dirigente di questa nazione, intanto i soldi li mettiamo noi e poi vediamo che cosa accade per gli altri. Purtroppo devo segnalare che chi tra i magistrati particolarmente ha ricorso contro questo provvedimento non ha dimostrato la stessa, diciamo, capacità di rappresentare una classe dirigente dentro una nazione. Senta, lei, per concludere, poi la ringrazio, la salutiamo, volete addirittura andare da Napolitano, cosa che per il momento mi pare non vi ha, cioè addirittura perché interrogare? Perché probabilmente il presidente Napolitano è l'unico che può su questo, diciamo, chiedere un migliore rispetto dell'articolo, in questo caso lo cito io, dell'articolo 3 della Costituzione, cioè quello che dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e che probabilmente non ha molto senso una sentenza come questa da parte della Corte Costituzionale, e che allora noi dovremmo prendere e dichiarare incostituzionale, ripeto, tutto, e soprattutto i provvedimenti che incidono sulla povera gente invece che quelli che incidono solamente sui potenti di questa nazione. E siccome la Corte Costituzionale è l'unico organo che può deliberare praticamente in pieno conflitto di interessi, sì. Probabilmente solamente il Presidente della Repubblica è al di sopra, neanche, poi si potrebbe dire, ma insomma ha una possibilità di no, perché in teoria anche i provvedimenti del Presidente della Repubblica sono sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, quindi diciamo, però sa, non è che mi sembra che siamo in piene prerogative del Capo dello Stato. Il Presidente Napolitano è un uomo che quando in questa nazione decide di dire qualcosa, insomma, viene ascoltato, quindi un potere io penso lo abbia abbastanza. Allora forse dare un segnale di giustizia in questa nazione può aiutarci anche ad avere un po' più di speranza. Allora, chissà se giustizia e speranza. Noi intanto la ringraziamo, onorevole Giorgia Meloni. Andiamo in pubblicità e poi con noi rimane Giuseppe Bozzi, così tra 5 minuti, presidente Bozzi, rientriamo e ci sono anche gli ascoltatori. 800 24 00 24, che ne pensate? Mi interessa il suo punto di vista quando dice: noi non volevamo dire non vogliamo pagare, ma il principio che abbiamo portato avanti alla Corte dei Conti, che l'ha esposto poi alla Corte Costituzionale, che ha accettato e bocciato questo contributo di solidarietà, è questo: perché se dobbiamo pagare noi magistrati, come, attenzione, ha fatto ricorso anche i giornalisti, e tra poco lo spiegheremo, altra casta, perché dobbiamo pagarlo solo noi? O pagano tutti o noi altrimenti veniamo discriminati. 24 mattino. Allora, eccoci qua ritrovati, stiamo parlando della decisione della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionale il cosiddetto prelievo sulle pensioni d'oro, vale a dire il contributo di solidarietà che era stato inserito nel 2011, prelievo del 5% per la parte eccedente il 90.000 euro l'anno e poi il 10% su chi eccede i 150.000 euro. È stato giudicato tutto incostituzionale perché c'è stato un ricorso della Corte dei Conti che è stata messa in moto da una settantina di persone, tra i ricorrenti anche Giuseppe Bozzi, che è con noi, già presidente di TAR, oggi giudice amministrativo in pensione, che recuperiamo tra un attimo. Prima vorrei sentire gli ascoltatori, devo dire i messaggi sono tanti, chi parla di ancien regime, di privilegio della casta, privilegio di tutto. Dottor Bozzi, senza fare strage della privacy, lei ci può dire quanto prende di pensione, così capiamo anche i termini della questione. Dunque adesso glielo dico, sì, in 2 minuti. Sì. Io prendo 6.300 euro. Netti? Sono no. Lordi. Sono netti, perché netti. La mia pensione, netti, dopo 40 anni di servizio, 40 anni di servizio, sì, come magistrato e avvocato del Comune di Roma, la mia pensione è, perché ho pagato i contributi, è di circa 12 milioni, il che vuol dire che quando io prendo la mia pensione mi tolgono circa 6.000 euro. Scusi, cosa vuol dire 12 milioni? Mi perdoni. Come? Cosa vuol dire 12 milioni? No, 12.000. Scusi, 12.000. Quindi 6.300 euro netti. Cioè lei rientrava nella fascia che eccedeva i 90.000 euro? Perché? No, di più. Sì, cioè che cedeva, che superava i 90.000 euro, sì, ma sì, di quanto cedeva, di quanto supera i 90.000 euro? No, io addirittura 150, perché supera se i 150. Io prendo 6.000 euro e passa al mese, lei lo moltiplichi per 12 e sicuramente è superiore a 90.000 sì, euro. Ah, perché si conta il lordo, quello, sì, la, è il lordo. Quindi 12.000 lordi, lei supera i 150.000, però scusi, se lo supera di poco, se lo supera, facciamo conto 160.000, il 10% di prelievo sarebbe stato solo sulla parte eccedente, quindi sarebbe stato sui 10.000, cioè sarebbe stata una quota non clamorosa, ecco. No, lei mi deve scusare perché io prima di tutto devo dire due parole su quello che secondo me erroneamente ha detto l'onorevole Meloni. Mi meraviglia sia perché è un deputato, cioè un cittadino, sì, mandato, eletto alla Camera dei Deputati per partecipare alla formazione delle leggi, primo. Secondo, perché il suo discorso è stato esclusivamente demagogico. Sì. Qui la questione non è come l'ha posta l'onorevole. Sì, lei dice invece è come l'ha posta lei, cioè non potevano chiedere ad alcune categorie e non a tutti un Bravo. Contributo. Vede, sì. Però, ma questo l'abbiamo capito, infatti la Corte Costituzionale vi ha dato ragione in questo. Sì. Però, dottor Bozzi, mi perdoni, l'idea di, come dire, lei, anche per il lavoro che ha fatto e anche per le qualità giuridiche, le capacità giuridiche, è in grado di fare un ricorso. Un povero cittadino, un povero Cristo, non ce l'ha queste stesse possibilità. E magari si vede la pensione indicizzata, 1.400 euro. Cioè, l'onorevole Meloni diceva, come gesto di buona volontà, non sarebbe stato meglio lasciar perdere? Ma perché? Ma perché? Perché noi sì e gli altri no? qui il problema non è del cittadino che non può proporre ricorso e non si può difendere, perché anche sotto questo aspetto c'è un errore gravissimo che è costituito dal fatto che chi non ha possibilità economiche è assistito da un avvocato di ufficio. Nominato dall'organo giurisdizionale davanti al quale si deve proporre, deve proporre la sua azione. Sì. Qui il problema, e l'onorevole Meloni evidentemente non lo ha capito, è del perché solo noi. Ah, vabbè, e questo l'ha detto chiaro. Perché lei dice solo noi? La stessa onorevole Meloni, che è una di quelle che partecipa alla formazione delle leggi, sì, ha parlato di ricorso al Presidente della Repubblica. È una delle cose più, come si può dire, più sciocche e più ignoranti, voglio dire di ignorare, nel senso di ignorare. No. Ma lei dice noi faremo la Repubblica, sì, in base alla Costituzione, sì, ha dei poteri e non può intervenire ma lì è una mossa politica, cioè l'onorevole Meloni dice vogliamo andare a parlare con il Presidente della Repubblica perché questa cosa la troviamo inaccettabile è la dialettica politica, insomma, sì, ci sta, cioè, ma siccome il Presidente della Repubblica non è uno sciocco e non è neppure ignorante, perché lei dirà non posso fare niente, è laureato anche in giurisprudenza, sì, dirà che c'è una Costituzione che l'onorevole Meloni dimentica decisiva, la quale dice e stabilisce le competenze a tutti gli organi. Ma questo è chiaro. Allora, 8:48 minuti, sentirei qualche ascoltatore, vi prego di essere molto molto brevi. Claudio da Bergamo, buongiorno Claudio. Buongiorno, innanzitutto saluto e abbraccio l'onorevole Meloni che veramente... Che adesso però ci ha dovuto lasciare, quindi le porteremo il suo abbraccio. Dici. Comunque mi creda, quel signore lì, mi creda, guardi, è fuori dal mondo, mi dispiace, ma non hanno ancora... Io 2 settimane fa sono intervenuto a dire che le pensioni dovrebbero avere un tetto a 3.000 euro e non essere inferiori a 1.000 euro, cioè questi sono fuori dal mondo, oramai sono su un altro pianeta, mi perdoni anche... Però in punta di diritto, guardi che la Corte Costituzionale ha deciso... Cioè, sì, però guardi che io tra l'altro mi sembrava di sentire su una puntata di Montalbano, Sinagra, insomma, quanti anni ha quel signore lì? Il mondo, cioè, guardi che avrà dei nipoti, andando avanti con questa mentalità, non i nostri figli, i nostri nipoti, cioè, non avranno un futuro, cioè, la smettono, ma quanti soldi vogliono, ma cosa se ne fanno poi? È una questione, adesso abbia anche un po' di rispetto, è una questione Bozzi sta portando avanti per una questione di diritto, dice perché dobbiamo pagare solo noi e non tutti, e ha portato avanti questo ricorso. E perché 3/4 d'Italia deve invece morire di fame e non arrivare a fine del bene, mese? E questa è la sua legittima contrapposizione, però non è che Giuseppe Bozzi deve sistemare il problema degli italiani che non arrivano a fine mese, sarebbe compito della politica, eccetera. Comunque Claudio, grazie per il suo intervento, vorrei andare a Riccardo, dalla provincia di Milano. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io invece, al contrario dell'ascoltatore precedente che ho sentito, devo dire che tecnicamente sono d'accordo con il dottor Bozzi. Il problema è, io non guadagno queste cifre, di 1.500 euro al mese, però tecnicamente ha ragione il dottor Bozzi, il problema è che questo paese è costruito in questo modo. Cioè questo paese, i politici negli ultimi 50 anni hanno costruito i privilegi, le caste. Signore, allora, la dottoressa... Quindi dice Bozzi, non fa né altro che tecnicamente utilizzare tutto quello che è previsto dalla legge. Assolutamente sì. La dottoressa Meloni o comunque i politici devono spiegare perché un dipendente della Camera, del Senato guadagnano 10.000 euro al mese e un dipendente di un'ASL guadagna 1.300. E questo però è un altro problema ancora. Ma fa sempre parte della logica della costruzione abnorme di questo paese. Cioè, tra l'altro io devo dire una cosa, no ma grazie Riccardo, devo dire una cosa, oltre a Giuseppe Bozzi, oltre all'altro, visto che ci ha detto Bozzi eravamo una settantina, hanno fatto ricorso anche, questo ricorso che ha dato loro ragione, il gruppo romano giornalisti pensionati, quindi giornalisti, perché questa misura riguardava oltre ai magistrati anche l'INPG, cioè la cassa previdenziale dell'ordine dei giornalisti, hanno fatto ricorso anche il gruppo romano giornalisti pensionati, e dobbiamo dirlo. Vittorio da Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica, anche Vittorio. Secondo me il dottor Bozzi ha ragione, perché ha ragione. Secondo me la pensione è un contratto e va tutelato da chi ha versato. Però sa cosa, Vittorio? Allora, che abbia ragione in punta di diritto non lo stabiliamo noi, lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Qui c'è una sentenza, quindi non possiamo. Lei lo sa che nottetempo per qualcuno sono state cambiate delle regole, per esempio, Vittorio. No? Ma le sembra giusto da parte dello Stato fare così? Cambiare unilateralmente i contratti? No, infatti. Cioè, allora è tutelato chi evade. Perché no. dichiara poco, certo. Ma infatti, ma lei ha ragione. Ma infatti, il punto, e la ringrazio Vittorio su questo: il punto è questo, dottor Bozzi, che le voglio sottoporre. Lei lo sa che nottetempo, ma non è un problema che riguarda lei, non è una decisione che ha preso lei. Si è creato il sistema con la riforma delle pensioni. Si è creato anche il sistema degli esodati. Il sistema, questo problema degli esodati, per esempio, cioè in quel caso si sono cambiati dei contratti, come dice Vittorio, che erano stati stipulati dallo Stato, si sono cambiate le regole in corsa. E allora questa è la sensazione, a lei e ai ricorrenti che avete fatto ricorso sono state cambiate le regole in corsa, avete fatto ricorso e avete avuto ora un pronunciamento della Corte Costituzionale. E gli altri, tutti gli altri che sono i più fessi? Bozzi. Possiamo pretendere un problema, vede, questo è un problema politico. Non ha niente a che vedere con noi o con questa questione che è stato oggetto del giudizio davanti alla Corte Costituzionale, perché questo è un discorso di carattere esclusivamente politico, sì. Perché i parlamentari debbono rendersi conto che non tutti, che tutti sono uguali. Sì. E che non c'è una categoria di... Certo, ma che sia un problema politico io sono d'accordo con lei, però ecco. L'insegnamento che mi lascia questa trasmissione è che chi è in grado di difendersi lo fa, e chi non è in grado di difendersi... Non è esatto, glielo spiego perché. Qui il problema è di natura giuridica. Non so se lei sia laureato in giurisprudenza. No, non sono laureato in giurisprudenza. Allora, se mi consente, glielo spiego io. Il ricorso alla Corte Costituzionale sì. Non è diretto. E questo lo so anche io, avendo fatto l'esame di giornalista. Un cittadino non può ricorrere. Esatto. Lei infatti ha sollevato il problema alla Corte dei Conti che ha portato. Non solo. Noi nel nostro ricorso alla Corte dei Conti abbiamo eccepito la violazione di alcune norme costituzionali, ma questa valutazione sulla legittimità costituzionale non è necessario che la facciano le parti, la può fare il giudice di ufficio, il quale si rende conto che la questione deve essere sottoposta alla valutazione al giudizio. Sì, certo, della Corte Costituzionale. Però il dato di fatto, ripeto, io poi qui la devo fermare, magari torniamo su questo tema, perché guardi, le telefonate sono state tantissime e io la ringrazio per essere stato con noi. A me rimane questa sensazione, cioè che molti italiani, forse ignoranti, forse non in grado di difendersi come siete stati in grado voi, si trovano un po' più in difficoltà. Comunque, grazie Giuseppe Bozzi per essere stato con noi, ti ascoltate tutto sul sito radio24.it e che dire, ci ritroviamo lunedì mattina? Sì, lunedì alle 6.30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.